Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, pronostici rispettati nei primi due ottavi europei, anche se le fatiche e la sofferenza del Barcellona erano previste, mentre il tracollo della Roma in quelle proporzioni meno. Dunque, fino a qui, e mi rivolgo a Fabio Tavelli, le statistiche che davano grande equilibrio al Camp Nou e quasi zero, quasi nessuna possibilità alla Roma sono state rispettate. È così, vero? Buongiorno a tutti. Sì, è così, nel senso che la partita del Barcellona con l'Arsenal è stata di fatto viva fino al 90esimo. Oltretutto l'Arsenal ha avuto anche un pallone addirittura per passare ai quarti, e la Roma invece è stata in campo poco, nel senso che comunque dire che sul rigore di Borriello e poi sull'espulsione di Mexes è finito tutto. Sì. Effettivamente i numeri che hai citato ieri sono stati rispettati in pieno. Sì, perché il Barcellona si parlava di un 51 e qualcosa per cento di possibilità, mentre lo Shakhtar era il 96 fischi, e in effetti fin qui ci hanno preso. Da una parte non c'è stata partita, dall'altra c'è stata e come. Una partita anche paradossale nel suo esito, perché 13 conclusioni in porta a zero per il Barcellona, nel senso che il gol se l'è fatto, l'autogol se l'è fatto il Barça, e quindi quelli in porta non hanno tirato veramente mai. Ma con tutto questo, una grande partita difensiva dell'Arsenal, solo difensiva nel primo tempo, e poi quella superiorità numerica che indubbiamente ha agevolato le cose. Quindi da un certo punto di vista è giusto che l'Arsenal abbia da recriminare, dall'altro il livello di spettacolo da una parte e produzione di palle gol dall'altra fanno sì che un esito così tirato sia addirittura paradossale. Sì, è vero, c'è tutto in questa analisi. C'è il fatto che l'Arsenal abbia scelto di giocare una partita diversa da quella che è la sua natura, cioè ha giocato una partita, verrebbe da dire all'italiana, verrebbe da dire più o meno come giocò l'Inter l'anno scorso, nel senso di coprire molto e sperare nella cattiva vena realizzativa del Barcellona, che a un certo punto sembrava essere, perché comunque il Barça ha segnato un gol, secondo me, memorabile, ma anche di più, con Messi il gol dell'1-0, poi insomma questi hanno trovato l'1 pari in maniera un po' avventurosa, e diciamo che il canovaccio della partita a quel punto lì era abbastanza chiaro, e in 11 contro 11 credo sarebbe stato molto difficile, perché comunque il Barcellona attaccava come sempre fa, come fa in ogni partita, e l'Arsenal, diciamo che con Van Persie avrebbe avuto un'arma in contropiede che poi non ha più avuto. A quel punto lì ha messo 9 uomini fuori dall'area di rigore e sperava che il frangiflutti tenesse, poi evidentemente non è successo questo. Devo anche dire meglio così, nel senso che alla fine è passata la squadra che sa regalare più emozioni e sa regalare più pathos a questa Champions League. Devo dire che l'Arsenal, pur snaturandosi, pur un po' violentando la sua natura, è arrivata davvero a un passo dalla qualificazione. Ah certo, se non fa quel miracolo Mascherano in recupero a un minuto dalla fine, col 3-2 ripassa l'Arsenal. Non so se lei è d'accordo, scrive Alex da Udine, ma per me le espulsioni di Mexes e Van Persie sono entrambe assurde. Alex, la penso esattamente al contrario, le due espulsioni di Mexes e Van Persie, per me almeno, sono sacrosante per due ragioni. La prima è che Mexes andava già espulso con un cartellino rosso diretto, secondo me, per il primo, che invece è stato solo giallo, perché era il tipico falletto a centrocampo, cretino oltretutto, ma cretino vero, perché aveva perso la palla lui scioccamente, ha lasciato andare via il primo uomo e sul secondo che gli è passato davanti gli ha tirato una pedata veramente da calcio amatoriale. E va bene, e sul secondo comunque trattiene l'uomo a metà campo e quindi ci sta in pieno. Van Persie è un'espulsione assurda se consideriamo assurdo il regolamento, se invece lo applichiamo, quando l'arbitro segnala fuori gioco e tu tiri ugualmente in porta, purtroppo, bello sbagliato o giusto che sia, ti cacciano. Non ho niente da obiettare, l'espulsione di Mexes è legittima e sacrosanta, ce ne stavano altre tra l'altro della Roma, come ce ne stavano almeno due secondo me, una a Borriello e una a De Rossi, strascritta, e una a Borriello nel finale. Certo. Devo anche dire che a De Rossi a questo punto sarebbe stato meglio l'avessero cacciato, perché almeno era una giornata, così saranno tre o quattro. Certo. Per quanto riguarda invece la decisione di Massimo Busacca, io credo che ieri Massimo Busacca abbia avuto una direzione difficile, nel senso che ci sono state due o tre situazioni nelle quali non è stato neanche fortunato. C'è un rigore colossale secondo me su Messi nel primo tempo, certo. Insomma, sul rigore che ha dato a Pedro, sì, però forse anche no, non lo so. Questa espulsione a termini di regolamento ci sta, perché Van Persie fa una cosa che il regolamento prevede essere sanzionabile. Se sicuramente Van Persie ha sentito il fischio e ha tirato così per un po' di frustrazione, per liberarsi dalla palla, per perdere quei 2-3 secondi, sì. È una pantomima quello che ha fatto dopo. Abbiamo cronometrato in un secondo e spiccioli il tempo che è passato dal fischio di Busacca al calcio di Van Persie, e quindi diciamo che ci sta più sulla reazione, sui nervi che sulla premeditazione. Van Persie ha dato a Busacca l'arma per cacciarlo, non certo. Che Busacca l'aspettasse. D'altronde sì, Busacca poteva anche far finta di niente, però a quel punto lì avrebbe potuto lamentarsi il Barcellona, e quindi, ripeto, a stretto termine di regolamento. Era comunque una decisione difficile. Parliamo invece di cose belle che il Barcellona ha mostrato. Io credo che la lezione di ieri sera, perché ogni volta c'è una lezione diversa, la lezione di ieri sera sia stata principalmente sul recupero palla. Bravissimo. Col pressing alto. Sì. Allora, Dani Alves ne avrà recuperate, per usare il linguaggio di Boriello, 25.000, no? Perché Boriello era quello che ha segnato 25.000 gol e lo lasciavano in panchina, poi ieri sera si è distratto sul rigore e su un'altra occasione di testa, in una facilità incredibile, ma un altro discorso. Dani Alves ne ha recuperate, non so, a decine. Iniesta qualcuna meno, ma il recupero sull'azione del primo gol è qualcosa di pazzesco addirittura. Guarda, secondo me Iniesta ieri è stato mostruoso, perché secondo me in quell'azione ci sono tre cose. C'è il colpo di tacco di Fabregas, che è tecnicamente un errore, ma ti dimostra come questo giocatore abbia una tale sicurezza di sé, dei suoi mezzi, da fare un colpo di tacco in una transizione al limite della propria area, che non è da benaggi, non è follia, è perché lui in quel momento con quel colpo di tacco pensava di prendere un vantaggio e di innescare il contropiede. Certo. Peccato per lui che ci fosse Iniesta, e io ieri poi in televisione ho usato questa cosa, tu non puoi sanguinare davanti a un pesce cane, perché in quel momento Iniesta gli ha portato via la palla, ma soprattutto ha messo un assist in mezzo a tre giocatori, cioè intanto ha fatto uno slalom, ma poi nello slalom ha messo un assist per Messi che è una cosa veramente da commovente, addirittura commovente. Fammi dire che a me sembrava dal vivo che Almunia gli avesse respinto la palla. Sì, anche a me. Sì, qualcuno mi ha segnalato, guarda che gli ha fatto pallonetto, io sono andato a rivedermela. E poi da svenire. Ed è una cosa onestamente da sali minerali, perché lui fa una cosa mostruosa, perché tocca la palla con il piede che sembra lo faccia con una mano. C'è una sensibilità sul sinistro che è quella che ha una persona normale con la mano destra. Guarda, facciamo così, visto che oggi l'appuntamento è della serie un pochino più breve, facciamo concludere a un ascoltatore che si chiama Simone, scrive da Padova e sintetizza quello che abbiamo detto adesso scrivendo questo: appena visto il primo gol di Messi ho pensato a un rimpallo, poi l'ho rivisto e ho dato definitivamente la cittadinanza di alieno alla Pulce, e mi sembra che sia, Sì. Ci mette d'accordo tutti una volta. Alziamo la paletta con il numero 10. Fantastico, ci sentiamo domani anche per Schalke e Valencia, ma evidentemente soprattutto per Tottenham Milan. Buongiorno. Molto Fabio. Bene, a domani. Grazie. Ciao, ciao. Noi facciamo il primo intervallo per le strade e poi ospiterei volentieri dei vostri interventi con altre osservazioni, con altre riflessioni sulle partite di ieri sera, ascoltando anche qualche protagonista. Papadopoulo è il nuovo allenatore del Torino, l'ha annunciato la società che ha esonerato Franco Lerda. Papadopoulo ha 63 anni, ultimo domicilio conosciuto il Bologna, al suo attivo due promozioni in Serie A, con il Siena nel 2003 e con il Lecce nel 2008. Primo ascoltatore da Torino, Luca. Buongiorno, volevo fare alcune considerazioni sul gioco del Barcellona. In qualche maniera mi ha un po' anticipato, in quanto... La fase offensiva è sotto gli occhi di tutti, ma giustamente, come ha sottolineato lei, ha fatto una fase difensiva ieri che è stato qualcosa di pazzesco, e questo denota anche un certo tipo di preparazione che le squadre italiane, a me pare, che nessuna abbia. E un'altra cosa era il fuorigioco, con la difesa dell'Arsenal che giocava così alta, io ho visto andare in fuorigioco due volte, penso. Sì, due o tre, non di più, è vero. Sì, due o tre volte, cosa che sui campi italiani anche questo, non si capisce come mai finiscono sempre fuori gioco. E finirei appunto chiaramente con il gol di Messi, che sembrava una tela di Van Gogh. e giusto per concludere, sottolineerei che appunto il Barcellona fa uno sport, tutto il resto del calcio mondiale applicano anche, fanno altro sport, insomma. Sì, sì, sto rivedendo in questo istante quello che ha fatto Iniesta sul recupero di quel pallone che subito dopo fa Messi. Probabilmente si esaltano l'uno con l'altro, cioè quando si accende, perché poi ogni tanto sono anche noiosi loro, intendiamoci, no? Non è che poi gli riesca tutto, se no davvero sarebbero degli alieni, invece sono semplicemente dei grandi o grandissimi giocatori. Lei ha citato tre o quattro fasi importantissime che dimostrano anche, perché se poi andiamo a battezzare i protagonisti, dimostrano anche come è vero che si parla giustamente dei grandi artisti, ma poi ci sono anche quelli che sono meno artisti ma che sono decisivi. Lei parlava di poche volte in fuorigioco, la scelta di tempo che ha Dani Alves per inserirsi, per esempio, il lavoro che ha fatto Pedro, sembrava il miglior Inzaghi ieri sera, soprattutto nella prima parte della partita, per come teneva continuamente sulla corda, entrando e uscendo da fuori gioco, tutta la difesa avversaria. Questo è evidente che permetteva agli altri di palleggiare e ricercare altre soluzioni, perché non potevano stare statici i difensori dell'Arsenal. Il pressing alto di ieri sera in particolare è un capolavoro, anche perché non è mai falloso, quasi mai falloso, e quello che fa Iniesta rubando il pallone a Fabregas, ha detto bene Tavelli, Fabregas fa un errore, però in quel tipo di calcio l'errore da eccesso ci sta, è ovvio, ed è forse l'unico margine per gli avversari, no? Perché se gli riesce tutto sono talmente superiori che tu non avresti margine, e invece ogni tanto esageri, sbagli e gli altri ti possono punire. Tocca ad Hassan da Verona, buongiorno. Ciao Gigi, ormai appartengo a questa radio quando c'è questo programma qua. Niente, volevo solo anche io confermare tutto quello che avete detto voi e te e praticamente Fabio Tavelli, no? Sul discorso del Barcellona. E mi è venuta in mente la consegna di Pallone d'Oro. Secondo me hanno sbagliato a darlo a Messi. Messi è fenomenale, tutto quello che volete, ieri ha fatto un bel gol. Però secondo me Iniesta appartiene a un'altra categoria. Ieri ha dribblato praticamente un supermercato nei tempi dei saldi praticamente. E a dare quella palla lì in quel momento, in quel fraseggio di tempo, a un Messi, va bene, sappiamo quello che è. Ma Iniesta secondo me è veramente un centrocampista da... Non ho mai visto un giocatore così, secondo me. Ne abbiamo visti pochi. Infatti io sono certo che... Quando questi, speriamo più tardi possibile, quando questi tre, in ordine alfabetico Iniesta, Messi, Xavi, quando questi tre avranno finito di giocare, bisognerà rivedere molte gerarchie della scala valori di tutti i tempi del calcio mondiale, perché credo che ne varrà davvero la pena. Giovanni, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Sono professionista tennista jazz e volevo dire che l'emozione che noi proviamo nel nostro campo, quando il nostro lavoro è 99% tecnica, preparazione e 1% genio, no? Quando riusciamo a emozionare il pubblico, è la stessa che ha dato ieri, che hanno dato quei giocatori. Adesso, almeno per me che non sono un praticante di calcio, la stessa, l'emozione dell'imprevedibilità, l'emozione di ma pensavo che facessi così, hai fatto cos'ha, è stata una gioia, insomma, una gioia. Che bel intervento, Giovanni. Mi fa venire in mente il modo in cui Enzo Bearzot rappresentava il calcio bello, il calcio di squadra migliore. Cioè, lui parlava proprio di un'orchestrina jazz, sosteneva che il calcio migliore della sua Italia 82, per esempio, lui se la immaginava con un'orchestrina jazz in cui tutti facevano la loro parte, ma poi ogni tanto partiva l'assolo. E quando l'assolo era di uno strumento anziché di un altro, dava brividi e sensazioni diverse. I migliori momenti del Barcellona, lei ha ragione, sono dei momenti, qualcuno ha detto pittorici, lei dice musicali, valgono tutte queste immagini, perché ti danno effettivamente la sensazione che stai assistendo, ti stai gustando uno spettacolo in tempo reale, uno spettacolo unico. Vedo che, lo leggo da alcuni messaggi, lo sento da alcuni scetticismi, vedo che questo messaggio fa che si sta diffondendo, che sta diventando, se non universale, molto più condiviso di un tempo, vedo che ancora incontra resistenza. Secondo me lo incontra giustamente da parte di chi il calcio invece lo ha sempre vissuto in maniera diversa, e soprattutto il calcio all'italiana, che è costruito invece sul controgioco anziché sul gioco, storicamente è così. è normale che da noi faccia più fatica ad attecchire e che quindi si cerchi di trovare ad ogni costo, che ne so, il punto debole di questo gioco, come è legittimo, perché se ci devi giocare contro o gli trovi il punto debole o se no tanto vale che non cominci nemmeno, partendo dalla loro serata di grazia. Poi è chiaro che ogni tanto hanno la serata non di grazia e allora, proprio perché sono così automatici, diventano forse più facilmente battibili, ma forse però cosa sentiamo? Beh, qui ci stiamo facendo la bocca buona anche per evitare di infierire sulla Roma, sulla scelta di Montella, abbastanza cervellotica per il mio, di rinunciare in partenza a Totti proprio per Borriello. Se si gioca in quella maniera con tutti quegli inserimenti, io credo che aver davanti Totti o aver davanti Borriello faccia una differenza enorme, ma questa è una scelta di Montella, che ha anche raccontato di aver cambiato idea all'ultimo. Il comportamento di De Rossi è veramente da pura frustrazione, ma non da giocatore di caratura internazionale quale De Rossi è, e lo pagherà caro. Discutere l'espulsione di Maxès, secondo me, significa non conoscere non tanto il regolamento quanto l'applicazione del regolamento in campo internazionale, e insomma c'è poco altro da fare, tanto vale evitare di infierire. Roberto Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. No, volevo due riflessioni. Una di Borriello, che secondo me non so cosa ci fa in Serie A, mi sembra, questa è la mia riflessione prima, e la seconda del Barcellona, che mi è sembrato un po', io ho visto almeno due o tre fuorigioco che non sono stati fischiati sì, per il Barcellona, diciamo, nel senso che io ho visto che due o tre volte erano in fuorigioco eppure non fischiavano quasi mai i guardaline, e questo secondo me è un po' anche favorito il Barcellona. Questa è un'altra delle teorie italiote più che italiane, secondo me. Io di fuorigioco al Barcellona ne ho visti invece fischiare alcuni e secondo me c'erano tutti. Poi quando una difesa difende come l'Arsenal, quando una squadra difende come l'Arsenal, tutto sul centimetro, è ovvio che tu metti a dura prova l'assistente che ogni tanto ci prende, ogni tanto meno, ma insomma credo che questo faccia parte del gioco. Però vede, mi fa un po' l'effetto il suo intervento di questo messaggio firmato Max: anche l'anno scorso con l'Inter hanno provato a fare il Barcellona, a far passare il Barcellona con un arbitraggio scandaloso. L'Arsenal invece non ce l'ha fatta. Se uno ricorda come andò Inter-Barcellona, insomma, converrete con me che di comici in giro, i volontari ce n'è un discreto numero. Riccardo da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a lei Garanzini, complimenti. Dice. Per la trasmissione. No, lei giustamente prima parlava di De Rossi, del gesto. Era capitano della Roma, è un giocatore che stimo, un buon centrocampista, un ottimo centrocampista, però già all'andata aveva fatto lo stesso gesto, quantomeno lo hanno detto. Al ritorno da capitano lo rifà, Gattuso lo fa, cioè, il calcio italiano mi sembra che insomma sembra non accettare lo scadimento generale che ha rispetto al calcio estero. Purtroppo e certi comportamenti di giocatori, soprattutto che fanno parte della nazionale, che dovrebbero essere di esempio, vedo che sì. Mentire a una gomitata che ha visto tutto il mondo veramente mi fa ridere, cioè uno deve avere anche il coraggio di essere dopo intervistato successivamente, non so che faccia uno possa presentare davanti a un giornalista dopo quello che ha fatto, che ha visto tutti. Beh, insomma, adesso senza criminalizzare, perché poi in giro succede anche di peggio, quello è un campo di calcio, in un campo di calcio ogni tanto i comportamenti scappano. Io devo dire che tra il gesto di De Rossi, che è un gesto molto brutto, istintivo di una frazione di seconda, e la reiterazione dei comportamenti pessimi di Gattuso, c'è una bella differenza. A svantaggio di Gattuso, io trovo, perché un conto è per l'appunto alzare il gomito, che è una bruttissima, cioè De Rossi ha fatto qualcosa di grave. Ha fatto qualcosa di grave in campo, ripeto, frazione di secondo. Quell'altro ha preso due volte la rincorsa per andare a attaccare briga, poi una terza l'ha presa in spogliatoio e gli è costata più cara, mi risulta, ma questo è un altro discorso di quelli off records, per l'appunto, e chissà perché mi è scappato. Grazie anche del suo intervento, facciamo un buon intervallo per ascoltare come va sui mercati. Lo Shakhtar Donetsk era per la prima volta negli ottavi di Coppa Campioni e a maggior ragione lo sarà per la prima volta nei quarti. È una società, una squadra che è cresciuta nei primi anni 2000 e che deve una parte, ma una parte significativa, ad un allenatore italiano che per la prima volta nel 2000 guidò quella squadra a vincere il campionato ucraino e anche la Coppa Ucraina di quell'anno, dando il là insomma a questa specie di, anzi a questa specie, dando il là a questa escalation che oggi è diventata così prestigiosa. Questo allenatore è Nevio Scala, che torno a salutare con piacere. Buongiorno Nevio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Mi piacerebbe che così che ricostruissimo un pochino insieme quella la nascita, insomma la genesi di questo di questa salita alla ribalta. Di questo matrimonio. Beh Gigi, è molto semplice, guarda, io quando mi è stato proposto appunto di allenare in Ucraina, ho detto, ma non ci penso nemmeno. Poi il presidente è venuto a Vienna con il suo aereo, mi ha caricato di forza, mi ha portato a Donetsk e mi ha fatto vedere gli impianti sportivi che lui aveva costruito e da lì ho detto beh, perché no, era una sfida, era una scommessa e poi mi sono portato alcuni miei collaboratori, Stefano Cuoghi, poi altri due allenatori di portieri, preparatore atletico. E lì è cominciata la nostra avventura. Certo non avevamo grandissimi giocatori, avevamo una squadretta molto giovane, però ecco, sull'esperienza di Parma abbiamo ricostruito lì il nostro modo di affrontare le cose, con qualche difficoltà di comunicazione, perché purtroppo il russo è una lingua molto difficile, ma per fortuna avevo un professore universitario che traduceva le mie espressioni, anche se non traduceva i miei sentimenti. Però sono stato fortunato appunto nel trovare le persone giuste, il presidente che aveva disponibilità economiche incredibili, e lì siamo riusciti in un anno a vincere, come hai detto tu prima, campionato e coppa, e abbiamo proiettato lo Shakhtar Donetsk per la prima volta in Europa. Mi piace molto la tua storia, perché a parte i primi due anni a Reggio Calabria, comunque con una promozione in Serie B e poi un quarto posto in B, tu hai passato poi lunghi anni a Parma, creando un ciclo abbastanza lungo, e sembra, Parma sappiamo che gioiello di città sia, e avevi creato questo microcosmo che faceva un po' da pandan a quell'altro tuo microcosmo agricolo invece che hai, no, dalle tue parti d'origine, e poi invece le esperienze professionali ti hanno portato a fare per qualche anno il giramondo, perché il Borussia Dortmund con la Coppa Intercontinentale, lo Shakhtar Donetsk con questa avventura che stiamo vivendo, poi lo Spartak Mosca, poi anche la Turchia. Adesso l'irrequietezza mi sembra placata, Nevio. No, ma in effetti guarda, sono state delle scelte molto ponderate, molto difficili. No, perché la mia famiglia non mi avrebbe seguito chiaramente, però ho voluto proprio cercare queste esperienze, ma non solo di calcio, al di là che non dobbiamo negare che mi sono stati proposti contratti importanti dal punto di vista economico e ai quali in quel momento non si potevano rinunciare, no, e quindi ho detto vado, conosco situazioni diverse, mi faccio un'esperienza importante e mi sono innamorato di queste mie scelte, perché se ti dicessi io tornerei domani ad allenare in Ucraina, perché mi sono trovato benissimo, ho delle fotografie che porto con me che sono meravigliose, non da un punto di vista calcistico, ma da un punto di vista di esperienze di vita. Ecco, una cosa che non farei forse la Turchia, che è stata un'esperienza negativa, ma poi la Germania, e lì non ho avuto difficoltà di comunicazione, perché grazie a mia moglie parlavo bene il tedesco, quindi ecco, e ho fatto queste scelte, e non ti nascondo che da un paio d'anni a questa parte mi è tornata la voglia di tornare in panchina e ho rischiato molto in ottobre di quest'anno. Sì, doveva essere una situazione anche importante, però poi così non si è concretizzata per tanti motivi. Ma dimmi almeno se è italiana o straniera. Come? Dimmi almeno se è italiana o straniera. Ma era italiana, ed è ed è una squadra, ma non lo nascondo, ed è la squadra che ieri è stata sconfitta 3-0 a Donetsk. Ah però, quindi a ottobre sei stato vicino alla, esatto, alla Roma. Perché c'era un momento di difficoltà di Ranieri, che appunto aveva dei problemi con i suoi giocatori, eccetera. Poi le vittorie, sai, cancellano un sacco di cose, che poi alla certo. fine Ranieri se n'è andato a gennaio, e lì a quel punto la società, visto che la società in questo momento ha la necessità di cedere, quindi hanno optato per una soluzione interna senza esborsi economici, e quindi, però ecco, diciamo che sono stato in buoni rapporti e ho rischiato molto di tornare in panchina con la Roma. Hai rischiato molto, e secondo me, visto che ti è tornato un pochino lo sfizio, ho l'impressione che quello che io pensavo non accadesse più, e sinceramente mi sarebbe dispiaciuto, invece possa tornare a succedere allora. Ci sono i miei figli e mia moglie che mi tengono per i piedi e mi dicono ma papà, ma chi te lo fa fare? Però in effetti è una vita che ho trascorso nel mondo del calcio, e ti ripeto, dopo 4-5 anni di calcio solamente televisivo e allo stadio, un po' di desiderio mi è tornato. Però ecco, non sto spingendo niente, questo è un privilegio che io mi posso concedere. Certo. No? Come accade che cosa? Come accade ai veri Cincinnato, scusa se ti interrompo, perché poi tu hai la tua azienda agricola da mandare avanti. Ho una bellissima azienda, Gigi, che gestisco insieme con mio fratello, quindi non sono obbligato alla presenza giornaliera, eccetera. Però perché ti è tornato il richiamo della foresta, dai. Ecco, è la mia passione da sempre, no? Quindi certo. Diciamo, se dovessi entrare di nuovo nel mondo del calcio, so che la mia azienda andrebbe avanti ugualmente con la gestione di mio fratello, eccetera. Quindi sono un uomo fortunato, non lo nascondo, e posso decidere di fare quello che più mi piace. Ti ripeto, mi è tornata un po' la voglia, però con questo non sto spingendo niente, ma se dovesse succedere sono proprio pronto. Questa è una notizia, intanto una notizia in assoluto, e poi una notizia che ho ascoltato. Ma le notizie le do solo agli amici. Certo, ho sentito, tanto ci stanno ascoltando quei quattro gatti, no? Come è nostro. No, quindi. Ascolta Nevio, torniamo brevemente allo Shakhtar prima di concludere. Da allora immagino che tu abbia seguito con una certa partecipazione l'escalation di questa squadra. Assolutamente sì, ma guarda che io sono in rapporti bellissimi con il presidente, che ogni anno il 22 novembre mi manda un lungo telegramma di auguri. Stamattina ho ricevuto sul mio telefonino un messaggio con una gigantografia mia che è esposta nella hall dello stadio di nuovo del Donbass Arena, mandatami da un esponente della tifoseria romana. No, e quindi io lì ho lasciato veramente un ricordo molto molto importante, e per questo con il presidente sono rimasto in ottimi rapporti, e quindi anche quando c'è stato Roma Shakhtar Donetsk a Roma mi sono trovato con loro, sono stato con loro, ho scambiato, ho fatto gli auguri in bocca al lupo. Quindi ecco, per me Donetsk è stata veramente una parentesi importante. Certo, pensa che appunto con quello che ci hai appena rivelato, pensa come ti saresti trovato, no? Io penso che se avessi guidato la Roma in quella, penso che il Shakhtar Donetsk avrebbe avuto paura. Sì? Nel senso che da un punto di vista psicologico il ritorno mio a Donetsk molto probabilmente avrebbe messo un po' di difficoltà in più. Poi è chiaro che i miracoli li faceva solo un amico mio molti anni fa, sì. E i miracoli si fanno adesso molto raramente. Però ecco, tornando a un discorso tecnico, lo Shakhtar Donetsk è veramente una bellissima squadra, una squadra molto veloce, una squadra giovane, una squadra che è messa bene in campo da Lucescu. E quindi guarda, io non azzarderei un pronostico, ma io vedo lo Shakhtar al di là dei quarti di finale. Al di là dei quarti di finale, beh, ti dirò che dopo la facilità con cui si è sbarazzato la Roma in due occasioni su due, questa cosa potrebbe anche cominciare a prendere piede. Non avevi avuto dubbi alla vigilia sull'esito, perché dopo il sorteggio avevi dichiarato che tutti pensavano che la Roma avesse pescato bene, ma tu invece sostenevi il contrario. Ma una delle frasi più significative che ho letto tu negli ultimi tempi è che un allenatore che ha fatto quello che ha fatto a Parma, con una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Supercoppa Europea, che ha vinto l'Intercontinentale col Borussia, eccetera, abbia detto: la stagione più bella della mia carriera è stato quel primo scudetto all'allenatore allo Shakhtar. Ma in effetti effetti, guarda, ti dico, lo ricordo veramente con emozione quel periodo lì, proprio perché siamo arrivati, lo Shakhtar Donetsk che era lì, che cioè, non riusciva mai a superare quella egemonia della Dinamo di Kiev, no? Siamo arrivati noi, sarà stata anche un po' di fortuna, però abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, abbiamo vinto il campionato e anche la Coppa, che abbiamo fatto quindi il famoso doublette, e per noi penso che i nostri tifosi ci ricorderanno, il precedente sicuramente, ma tutti i tifosi del Shakhtar Donetsk ci ricorderanno con grande affetto soprattutto. Noi ci ricorderemo di questa chiacchierata, e io in particolare, fino a che perlomeno non tornerai, non abbandonerai le tue campagne, ogni tanto tornerò a disturbarti. E io ti ringrazio molto. Grazie, Nevio. Tutti i tuoi ospiti e i tuoi ascoltatori. Grazie a Nevio Scala. Collegamento con le informazioni per strade e autostrade. Grande Nevio Scala, viene a allenare Vicenza, scrive Roby per l'appunto da Vicenza. Nevio, vieni a Padova, sei vicino a casa, così stai in azienda e ci porti finalmente in alto. Altro messaggio. Scala, venga a Verona, sponda Hellas, che ci riporta almeno in Serie B, scrive Stefano da Verona. E un altro esagera, dice, allenerebbe la Juve, signor Scala. Beh, insomma, diciamo che il gradimento per questo presunto ex allenatore non manca. Andiamo per ordine, perché sono rimaste parecchie cose da dire e da fare prima di chiudere. Andiamo per ordine, sentiamo la rubrica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 9 marzo 1960. La nazionale giovanile si prepara alle Olimpiadi di Roma sfidando in amichevole i pari età della Svizzera a Berna. Debuttano in questa occasione due giovani talenti del calcio italiano, il 16enne Gianni Rivera dell'Alessandria e il 19enne Giacomo Bulgarelli, centrocampista del Bologna. I due si mettono subito in luce con una doppietta a testa. Sotto la guida tecnica di Gipo Viani, la rappresentativa antesignana dell'Under 21 concluderà al quarto posto il torneo olimpico, perdendo contro l'Ungheria la finale per il bronzo. Oltre a Bulgarelli e Rivera, di quella squadra facevano parte anche Burnic, che all'epoca giocava nell'Udinese, il Granata Ferrini e i milanisti Trapattoni e Salvatore. Beh, come sempre una chicca, anche quella di oggi, tra quelle che Nicola Filippone scava e trova quotidianamente come un vero cane da tartufi. Dunque, ieri Roberto dalla provincia di Milano ci ha chiesto, se qualcuno se ne ricorderà, ci ha chiesto informazione su Assulin, un giocatore che il figlio aveva incontrato in un torneo giovanile a Milano, di cui poi non aveva più avuto notizie, pur essendo questo un giocatore di grande livello, secondo lui. Allora, Guy Assulin, israeliano, classe 91, questa è una ricerca griffata Franco Piantanida, nel 2003 a 12 anni era entrato nella cantera del Barça. Nel 2007 gli è stato offerto un contratto da senior con una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro, giusto per dire che aveva visto bene il nostro amico Roberto che questo era un grande giocatore. Era il più giovane della squadra B guidata da Guardiola, che quell'anno vinse il campionato di terza divisione. E di lui Guardiola disse a Assulin: uno di quelli che porterò certamente in prima squadra. Quando Guardiola prese la prima squadra non riuscì a portarlo insieme a Busquets e a Pedro perché si era infortunato seriamente a un ginocchio. Da allora qualche vicissitudine, nell'estate 2010 ha lasciato il Barça e a dicembre ha firmato col Manchester City. Ha giocato qualche partita con le riserve del Manchester City, ma una settimana fa si è di nuovo infortunato in un incontro con le riserve del Wigan, quindi probabilmente ha problemi, come dire, strutturali di ginocchio questo ragazzo, questo Assulin, che in ogni caso resta il più giovane calciatore israeliano ad aver vestito la maglia della nazionale a nemmeno 17 anni, 16 anni e tanti giorni. Alessandro ha chiamato da Ancona, buongiorno. Buongiorno, senti, io volevo fare una domanda riguardo al Barcellona. Sì. Qualche volta sembra quasi che vogliano entrare in porta con la palla, no? Questo continuo gioco anche all'interno dell'area di rigore, che è una cosa fantastica, per carità, ma non potrebbe diventare anche un limite, se proprio lo vogliamo chiamare limite, per una squadra così? Hanno giocato le due partite con l'Arsenal dominando, quella di ieri e anche il primo tempo a Londra. Sì. E arrivando all'ultimo minuto, che se tante volte Mascherano, come diceva prima lei, non faceva quel recupero sull'attaccante su Bernard, e Bernard magari un po' sveglio, un po' più sveglio prima, e non sbaglia il controllo a seguire, tombola, è vero. Questo che volevo dire. È fantastico vedere giocare al Barcellona, ma potrebbe essere un limite? Secondo me, lei ha detto, non può diventare un limite. Io penso che lo sia già in certi momenti, nel senso che dal 2-0 in avanti, e in effetti loro hanno passato in autunno un periodo abbastanza lungo, no? che ne segnavano 5 alla volta, compreso il Real. Allora, dal 2-0 in avanti è giusto, secondo me, visto che si divertono, è giusto che si divertano il più possibile. Quando la partita è in bilico, questo è un limite, io credo. Nel senso che così è più complicato, oggettivamente è più complicato. Loro da fuori non tirano praticamente mai, se non vanno in porta col pallone, se non fanno 4 triangolazioni volanti, non sono contenti in certi momenti. E ripeto, col punteggio in bilico mi sembra molto rischioso. D'altra parte sono così, prendere o lasciare, insomma, tutto sommato io li prenderei, ecco, così a spanne. Antonio, provincia di Padova. Pronto? Dica. Sì, buongiorno. Senta, anch'io ho guardato la partita Barcellona-Arsenal, posso dire che mi sono divertito tantissimo anche a vedere David Villa sulla sinistra, che praticamente sembrava giocarsi da solo, perché c'è stato un momento dove avrà fatto una decina di inserimenti puntando al gol che, sì, come ho detto, sembrava fosse da solo, nessuno lo, e come, non considerato, ed era un spasso vedere il Barcellona giocare. Però questo rimembrare sempre o paragonare la partita con l'Inter Barcellona dell'anno scorso, perché l'Inter così gli è andata bene, quello mi fa un po' male. Quello è stato un capitolo che, cioè, come a sminuire l'Inter, non credo, cioè l'Inter ha fatto evidentemente un capolavoro l'anno scorso, nessuno rivaga, sono alcuni ascoltatori che rivagano e vedesse questo display, dato che c'è qualcuno che rivaga dicendo la lezione, non so più cos'è che hanno detto, beh, sono piano con le lezioni, no? Nel senso che l'altro anno è andato in un certo modo, l'Inter ha vinto, li ha eliminati, ha fatto un'impresa storica, soprattutto per aver resistito in 10 al Camp Nou, fine. Però da lì a dire se c'è l'Inter, insomma, ci siamo capiti, spero. Se non ci siamo capiti, fai stess, è uguale in dialetto langarolo. Manuel scrive: solo in un'altra occasione ho visto un uomo incidere così efficacemente su un gruppo già rinomato per essere il migliore al mondo, come fa Messi col Barcellona, ed era von Karajan con il Berliner Philharmoniker. Ecco, ogni tanto esageriamo, ma soprattutto usciamo, cioè cerchiamo altre metafore, no? Perché non basta più la pittura, non basta più l'orchestrina jazz, adesso siamo arrivati addirittura a von Karajan e ai Berliner Philharmoniker. Luigi da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Le volevo chiedere, non so se ha sentito ieri il discorso di De Laurentiis. Sì. Volevo solo sapere la sua opinione. Io ho trovato fuori luogo, insomma, una cosa antipatica, se così posso definirla. Volevo sapere, ecco, lei cosa ne pensavo. Grazie. Non l'ho trovato poi così fuori dalle righe, nel senso che è stato titolato in una maniera ad effetto, è stata presa solo la parte negativa di quello che lui ha detto, e invece leggendo in dettaglio tutta la chiacchierata, tutta la conversazione, per come era articolata, sì, c'erano un paio di asprezze, un paio di punti, insomma, che si potevano anche limare, e su cui invece De Laurentiis si è un po' calcato l'accento, ma secondo me complessivamente il discorso aveva un suo senso. Poi opinioni. Luigi, grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.